soverchiata dal vento, i miei pensieri foglie sulle vie. Se il destino mio fosse un immenso deserto, le mie speranze piogge su di noi. Dentro me c'è un ascensore, io non prendo le scale della ragione, sul pian terreno, coi sacchi nella mano, pieni di incertezze, sogni fra te stelle cadute, un'illusione mi fa un sorriso, mi porta più lontano e ancora su. Smetto di sognare ancora su fra le case.